glaucoma e da studiare il glaucoma è una condizione che una volta aveva 2 anni, adesso si evolve in 6 mesi. E può portare da studi fatti a forza di pressione, signor dottor. Compressione, le due compressioni, la compressione esterna, aspirazione, compressione, scoppio e scarico. Sì, e trombare. Non deve avere serie, deve fare sempre dal discorso. Le due compressioni. Una esterna, che contribuisce sulla cornea e gli assorbiti. La parte centrale, lo signor che lui si, lo vuoi fare un giorno, lo vuoi fare anche un giorno, non vuoi neanche andare a fare. Abbiamo tirato a fondo che stava trasformando in che cosa? La glaucoma. Ed era la compressione delle pinne. Le due compressioni. Ed era lì diventa contratto di qua, di là, su, giù. Non potevo portare la pressione nel volto. Non abbiamo neanche la possibilità di portare niente a contrarre, perché non era più la prima azione. Perché se viene a compressione esterna, la compressione esterna e la parte della lentura porta via tutte le acque che lavora sul secco. La scusa del ma per la regina, c'è un po' di voce.